Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Come si fa ad ottenere la benevolenza del popolo quando si è preso il potere in modo non del tutto legittimo? Qualche volta lo si fa costruendo un bellissimo ospedale. Questo fu il ragionamento di Francesco Sforza, il nuovo duca di Milano, che alla metà del 400 succedette alla famiglia dei Visconti, non esattamente con una successione diciamo perfetta, ma comunque pensò bene di costruire un grande edificio destinato al popolo. E cosa costruì? Un ospedale. Fece costruire all'interno della città, ebbe dei terreni, delle donazioni dei terreni, e chiamò uno dei grandi architetti teorici fiorentini del 400, che si chiamava Antonio Averulino, detto il Filarete, e questo signore progettò un colossale ospedale che era costituito da tanti cortili affiancati l'uno all'altro, con delle grandi corsie dove i malati potevano stare distanziati l'uno dall'altro e potevano naturalmente nella crociera della corsia assistere alla messa. Questa era una necessità, quella della cura del corpo, ma anche quella della cura dell'anima, tipica in tutti gli ospedali europei. E quindi sorse questo bellissimo, colossale edificio, che oggi è la sede dell'Università Statale di Milano, nel cuore della città, e naturalmente venne ampliato nel tempo, perché l'ospedale oggi si presenta con una parte quattrocentesca di grande qualità architettonica, ma con un altro grande cortile barocco, il cosiddetto cortile del Richino, che venne aggiunto nel 600, insieme alla cappella dell'ospedale, che ospita tra l'altro un bellissimo quadro di Guercino. E poi fino all'800 si ampliò il grande edificio. Questo edificio ha funzionato tantissimo, era così grande che ancora oggi a Milano lo chiamano in forma dialettale la Ca Granda, la casa grande, e ha mantenuto l'aspetto originario nonostante i terribili bombardamenti del 1943-45 che lo hanno colpito in modo drammatico, ma nella fase di ricostruzione si è cercato di ripristinare almeno le parti che si potevano salvare, e ancora oggi noi possiamo vedere un edificio splendido di architettura civile del 1400 a disposizione dei sofferenti e di chi aveva bisogno.